stavo cominciando a scrivere l'inizio di questo libro, volevo sperimentare una lingua forte, evocativa rispetto alla mitologia greca, mi chiedevo se i miti greci potessero ancora raccontarci qualche cosa della contemporaneità, quindi dove risorgono senza che uno se lo chieda. Mentre facevo questo lavoro per questo libro, ho scritto Antigone, che era un'opera teatrale, un rifacimento dell'Antigone di Sofocle in chiave moderna, e poi però quando ho staccato Antigone ho ricominciato a scrivere questo libro, quindi una stesura molto lunga di 3-4 anni, e allora non mi ricordo proprio più perché ho cominciato, però so che ho finito. In questo romanzo si affrontano, come dire, le paure, i dubbi, i dolori di questa madre che è appunto questo figlio disabile. Non si capisce bene che tipo di handicap ci sia, si sa che ha dei problemi di deambulazione, dei problemi cognitivi, dei problemi alla vista. Una volta si cita la parola autistico, però è poco importante questo. Allora, a proposito dei dubbi della madre, io ho segnato tantissime frasi in questo libro perché le ho trovate di una intensità, di una bellezza notevole. Per esempio, la madre dice: avevo paura che la bellezza non ti cogliesse. Che cos'è questa paura della madre? Allora, no, questa secondo me è una bellezza, è una paura assoluta. Cioè, è una paura non solo dei genitori, secondo me è proprio una paura di tutte le persone che sono innamorate di altre persone. Cioè, non so, anche una fidanzata con un fidanzato sta vedendo una cosa bellissima, quel particolare tramonto, e se non c'è la persona che ama sembra che sta perdendo qualcosa. Cioè, pare che non è completa la conoscenza, l'esperienza, se non è condivisa. Allora, questa può essere una paura, per esempio, di un genitore anche con un figlio normotipico, perché può pensare: noi abbiamo avuto questa bella vita e il nostro figlio non l'avrà. E in questo caso in particolare è una paura legata al fatto che questa madre non ha ancora capito come raggiungere veramente Arturo. Arturo è un bimbo chiuso in un mondo diverso da quello che vive lei. Allora lei deve imparare a rispettare Arturo, però anche a cercare dei punti di sfogo dove i due mondi possano comunicare. Allora, rispetto a questa distanza, che in realtà è una distanza emotiva che lei mette, perché appunto, come dicevi giustamente, non si dice mai, non si entra mai nel dettaglio su quali siano i problemi di Arturo, perché a me non interessava assolutamente, mi interessava solo il punto di vista della madre. Allora, è rispetto a questa distanza che la madre teme di che la bellezza non possa accogliere il figlio, ma appunto sono proiezioni della madre più che incapacità del figlio. In questo romanzo, come dicevo, non c'è buonismo, non c'è una madre che dice: ah, sono fiera di mio figlio indipendentemente così com'è. Anzi, ci sono tutti i dubbi e le paure. Lei proprio all'inizio del romanzo parla di difficoltà ad accettare, ma difficoltà ad accettare di essere una madre di un disabile o ad accettare che il proprio figlio abbia dei problemi? Cioè, è concentrata su di sé o su di lui? Io non penso che ci sia distanza. Io ho giocato in questo libro, per esempio, sulle persone. Lei parla in prima persona di se stessa e in seconda persona a suo figlio. Le parole, diciamo, i due modi sono interscambiabili, e poi anche il figlio a un certo punto ha difficoltà a centrarsi come io, quindi parla di sé in terza persona, dopodiché a un certo punto del libro nessuno capisce più niente e quindi si parla per concetti assoluti. Questo per dire cosa? Che il primo tentativo che ho fatto di eliminazione della distanza tra madre e figlio è proprio un tentativo linguistico. Il titolo, no? Tempo di imparare, allude a un apprendimento. Teoricamente l'apprendimento è verticale, dal maestro all'allievo, dal genitore al figlio. Qui chiaramente è ribaltato, è lei che impara, però anche lui impara qualcosa. Allora, questa distanza, questi due punti di vista non esistono più. La madre ha difficoltà ad accettare che questa sia la loro vita, perché ne aveva immaginata una diversa. Questa cosa, ancora una volta, credo che sia vera per un sacco di persone, perché uno può immaginare che avrebbe passato un anno in un modo e poi succede un altro. È vero per le cose brutte, perché uno può venire una malattia, può subire la perdita di un lavoro, una separazione, una morte, un lutto, no? Però può essere vera anche per le cose belle, nel senso che non è possibile pianificare il proprio futuro e non è possibile immaginare la propria esperienza, perché esistono l'ora e il qui e non v'è altro. È quello che la madre deve imparare. La madre è anche molto arrabbiata, naturalmente, con il destino che le ha portato questo figlio disabile, e infatti giustamente pensa ogni volta che vede altri amici, altri bambini sani, perché loro ce l'hanno così e io no. E c'è un punto molto bello dove parla con una sua amica che invece alla quale è morta la figlia, e lei si confronta con la idea possibile della morte del figlio, perché l'amica le dice: vuoi fare a cambio con la mia situazione? E lei riflette: mi accorsi che non riuscivo a pensarci veramente, che c'era un luogo c'è dove non posso arrivare con il pensiero, e quel luogo è la tua morte. Allora, questa donna non è contenta della situazione in cui si trova, però sicuramente non è pavida. Questa donna ha un sacco di sentimenti negativi, è invidiosa, è arrabbiata, ha paura, però non si ferma proprio mai di fronte a questa paura. È anche questo che le insegna Arturo. Arturo non si ferma mai. Cioè, fa tutte le sue esperienze, le fa a un tempo diverso rispetto a quello degli altri bambini, però le fa. E lei anche è arrabbiata con le istituzioni, con i burocrati, però che fa? Mica si ferma, spara con una sparachiodi e inchioda lo psicomotricista al muro, prende una clava e scassa le vetrine di un policlinico. Arriva in un convegno e mette verbalmente KO tutti i congressisti. È arrabbiata con la scuola, però va a dire quattro parole al dirigente scolastico, fa ricorsi, si arrabbia continuamente, quindi dà sfogo a tutto. E anche rispetto alle sue paure, lei è una che marcia, non si ferma davanti a niente, e questa cosa le servirà. Cioè, serviva a me, per esempio, come scrittrice, per arrivare alla fine del libro, perché un libro, cioè, il rischio era tenerli immobili in una situazione, invece io dovevo far procedere, e il procedere poteva essere solamente una specie di romanzo di formazione di una quarantenne, perché questa è l'età che io le do nel libro. La figura del padre è quasi inesistente. Ariel compare, ma non nel senso che non partecipi alla vita della famiglia, non sia vicina, però effettivamente appare solo sullo sfondo ogni tanto. Come mai hai deciso di metterla in modo così sfocato? Questo è proprio un mio limite. Io degli uomini non so parlare, non parlo mai, li sfoco sempre, ma questa è una cosa che mi porto dietro da 15 anni. Cioè, era vera nei racconti, è stato vero nei romanzi. Una sola volta in un romanzo si chiama Quale amore ho parlato di nuovo per parlarne male. È proprio un limite mio. Le donne sono così interessanti, allora io le so raccontare molto bene. Probabilmente lo sono anche gli uomini, però io li racconto peggio. Un'ultima domanda proprio sulla lingua. Proprio all'inizio dell'intervista tu dicevi che hai fatto anche una ricerca, un lavoro sulla lingua, e si vede, perché è una lingua poetica, non banale sicuramente, ci sono parti aspre, parti dure e parti invece appunto più poetiche. Quanto dedichi alle parole, alla costruzione proprio del testo? Come ci hai lavorato? Ma proprio tutto, nel senso che io ho in mente i miei libri li scrivo tutti così, l'inizio e la fine, poi scrivo per mezzo. Poi ho in mente delle immagini, ma non so come le scriverò, per cui se non comincio a scrivere non so come escono. Ma scrivi così, di getto, oppure lavori su ogni singola parola, su ogni singola frase? Insieme, perché io scrivo di getto e il getto mi esce sempre già buono, diciamo. Non so come dire. Buona la prima? Buona la prima. Poi ovviamente dopo che ho buttato giù tutta la materia comincio lì e mi sistemo un sacco di cose, lì mi aggiusto. Però voglio dire, non è che se tu leggi una prima stesura e una seconda stesura, magari ci sono anche 6 mesi in mezzo, ma non c'è tanta differenza. Puoi trovare 10 pagine in più. Puoi trovare, ma non ci sono cose, proporzioni tanto diverse tra i personaggi, frasi completamente cancellate, no. Non lo so, io faccio una fatica enorme quando scrivo, cioè io scrivo, non una fatica, per carità, quello è un lavoro, ed è un lavoro così bello, io sono così grata che non la voglio chiamare fatica, però voglio dire, sono molto concentrata, non butto lì una pagina perché la devo scrivere, ci posso mettere anche 5 giorni per scrivere una sola pagina, però poi una volta che l'ho scritto ho fatto. E questa era Valeria Parrella, autrice di Tempo di imparare, pubblicato da Einaudi. Anche per questo appuntamento con i romanzi in valigia è tutto. Vi ricordo che Il cacciatore di libri, come sempre, va in onda il sabato alle 6.45 e alle 22 e in replica la domenica alle 14. Grazie in regia a Pietro Lacorte, una buona lettura da Alessandra Tedesco.